Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Buongiorno a tutti, ciao, buona domenica. Nuovo puntato, nuovo ospite, oggi siamo felici di avere qui con noi il professor Sandro Donati, benvenuto. Grazie. Allora, è con la fortuna di averti qui e non possiamo che parlare di doping partendo diciamo dall'ambito amatoriale, tema a cui spesso ci si approccia forse con un po' di leggerezza e direi c'è sempre un po' bisogno di una sensibilizzazione continua del tema. Eh sì, perché è un fenomeno che tende ad espandersi, perlomeno fino ad ora si è espanso. E quali sono i rischi del doping? Ma sono tantissimi, intanto perché alcune sostanze doping inducono anche dipendenza, per esempio gli steroidi anabolizzanti oppure gli stimolanti, e quindi tendono poi anche ad associarsi all'abuso di altre sostanze stupefacenti, e quindi si crea un insieme, come dire. E poi c'è questo fatto che il doping diventa il tuo compagno segreto in qualche maniera, e quindi una volta che ti ha consentito, o almeno tu hai l'impressione che ti abbia consentito di raggiungere una prestazione superiore alle tue forze, a quel punto ti ci attacchi come alla copertina di Linus. E sei convinto di poterlo gestire in qualche modo? Ma sì, perché ognuno poi tende a fidarsi delle minimizzazioni del compagno di corsa. In realtà tutte queste sostanze che abbiamo nominato ci hanno un sacco di effetti collaterali. Ma oltre alla ricerca della pura prestazione, no? Quali sono i motivi che spingono gli atleti al doping? Ma fino a prima che esplodesse il fenomeno dell'abuso di doping tra gli amatori si pensava semplicisticamente che fosse il denaro. Non è così, perché chiaramente gli amatori dimostrano il contrario, no? Nessun amatore guadagna, anzi spende per fare l'attività sportiva, no? né diventa famoso, quindi è un qualcosa di diverso, è un malessere personale o una insufficienza personale che ti porta a cercare di apparire più di quello che sei, magari nel tuo piccolo ambito circostante, insomma. Certo, e perché sono più gli uomini, secondo te, rispetto alle donne? Sicuramente gli uomini sono più fragili in questo senso, no? Dal punto di vista dell'apparire, credo che le donne siano più sostanziali, più concrete, più legate alla realtà, però non sottovaluterei, perché poi dopo tante altre fenomenologie dimostrano che pian piano, basta pensare a quella del fumo, del tabacco, pian piano certi modelli diciamo tendono ad espandersi, anche se le donne sono obiettivamente meno suscettibili. E per quanto riguarda gli amatori, soprattutto i giovani, fanno uso di doping dai dati? Direi che tra i giovani non c'è una grande diffusione, no, tra gli amatori purtroppo c'è da dire proprio le persone di una certa età. Che dovrebbero avere equilibrio, anche rispetto per il proprio corpo, perché poi da 50 anni in su hai delle fragilità e quindi devi intendere lo sport come un miglioramento della tua salute, evidentemente, non uno strumento per peggiorarla. Ci fu un caso che ricordo di un 79enne master che faceva il salto in lungo che risultò positivo a un controllo antidoping per il testosterone, per cui insomma a 79 anni era sì, adesso non so se lo prendesse per terapia, magari per terapia, insomma, questo. E invece leggendo i dati annuali che emergono dalle analisi del Ministero della Salute, sempre per quanto riguarda gli amatori, emerge proprio che il doping a livello amatoriale è sempre in continua evoluzione. Ho notato che appena un farmaco viene dichiarato dopante non viene più acquistato, proprio sparisce insomma dalle dinamiche della farmacia in qualche modo. Ma guarda, il fenomeno con la diffusione di internet ha cambiato di aspetto, cioè nel senso che è raro che si vada ad acquistare in farmacia il prodotto dopante, anche perché i farmacisti stanno attenti a non rovinare la propria reputazione. Si tende più che altro a comprarlo via internet con delle carte prepagate e ti arriva il pacchetto anonimo a casa. Io ho analizzato a lungo questo fenomeno con una criminologa di origine italiana, Letizia Paoli, abbiamo scritto un libro per un editore statunitense e sul mercato nero, che ha ampie proporzioni, che in Italia parliamo di 450 milioni di euro. soltanto del doping, poi c'è tutto l'indotto dei cosiddetti integratori. Sì. Io volevo chiedere, cioè, nel senso, una persona pensa, ok, inizio con questo che magari, non so, mi aiuta a recuperare più velocemente, poi comunque dopo un po' smetto e riesco a fare da solo. Iniziano anche così, no, le persone, soprattutto gli amatori? Sì, si comincia con degli integratori che sono leciti, no? Anche se è opinabile che servano realmente, perché qualsiasi specialista di scienza dell'alimentazione ti dice che se il tuo allenamento è equilibrato è sufficiente la normale alimentazione, purché sia a sua volta completa ed equilibrata, no? Sì. Quindi il primo passo è quello di cercare di convincere le persone, o in buona fede o per ragioni commerciali, cercare di convincerle che il cibo non è sufficiente, che l'alimentazione non basta. E poi, una volta che hai fatto quel passo, bisogna vedere. Ci sono tante persone che si fermano a prendere l'integratore, che posso dire gli aminoacidi o la creatina, sì. Non parlo di integratori calorici che insomma lasciano il tempo che trovano, però invece tra questa popolazione, diciamo così, di persone che hanno fatto la scelta dell'integratore, la percentuale di utilizzazione delle sostanze dopanti poi è molto più alta che nelle persone che non fanno neanche uso di integratori. Quindi sono due gruppi ben distinti. E noi parliamo spesso di amatori, insomma, chi affronta una maratona, una mezza maratona così, e mi capita di sentire tra le persone che incontro durante le gare che, per ovviare magari a qualche piccola infortuna, assumono dei farmaci tipo antinfiammatori prima della corsa. Qual è il rischio? È una scelta azzardata e rischiosa, proprio perché l'antinfiammatorio lì per lì ti copre la sensazione del dolore, ed invece il dolore è un'informazione importantissima che dà l'organismo, ed anzi proprio in base al dolore tu ti regoli sulla tua situazione, se interrompere l'attività, cambiare la tipologia di esercizi, fare un programma di recupero. E quindi l'antinfiammatorio è, diciamo, è un abuso di un farmaco che assolutamente non va usato nell'attività sportiva. O l'antidolorifico, sì, in generale. Sì. Ma qual è l'aumento di prestazione che si può avere su un atleta elite con un cambio di preparazione? Quindi grandi prestazioni improvvise, cioè ci sono, cioè voi com'è che vi allarmate? Qual è la spia d'allarme? Ma è difficile dirlo, certo. Seguendo la carriera di un atleta, che posso dire, se c'è un miglioramento imponente, macroscopico, insospettisce, però è sempre difficile dire, è sempre difficile giudicare. E intanto vorrei precisare che nello sport di alto livello ultimamente si fanno comunque più controlli che in passato, e quindi il margine per doparsi è diminuito. E quindi a questo punto è ancora più difficile identificare, cioè, mentre fino a 15 anni fa si poteva abusare con l'EPO, per esempio, oppure con le trasfusioni, quindi si potevano conseguire dei miglioramenti molto molto rilevanti. Adesso, fra controlli a sorpresa, passaporto biologico cosiddetto, che è, diciamo, è un monitoraggio di alcuni parametri del sangue, i margini per doparsi sono diminuiti, e quindi si tende a ricorrere a dosi più ridotte, quindi diventa una specie di acrobazia. Però complessivamente, diciamo che la portata del doping è stata un po' ridimensionata da questi controlli più assidui. Perché si parla sempre di antidoping un po' in ritardo. Allora, qui bisogna dire un qualcosa che non è popolare. Allora, noi abbiamo bisogno di credere nelle istituzioni, ma poi la domanda è: ma le istituzioni fanno quello che bisogna fare? Certo. Nel caso specifico, le istituzioni sportive sono sempre state in ritardo rispetto al doping, ma non per incompetenza, non per incapacità, bensì per una commistione. Nel passato sono stati innumerevoli gli episodi di commistione. Quindi, diciamo, tutto questo ha portato ad un antidoping di facciata. Ancora attualmente l'antidoping è molto formale, faccio due esempi e fanno capire, no? Il primo esempio è che l'atleta, soltanto al terzo controllo antidoping evitato, che si chiama missed test, va incontro a un procedimento sanzionatorio. in un anno. Mm. Significa che durante l'anno si può giocare due jolly, diciamo così, l'atleta disonesto, non si fa trovare in momenti chiave. Questo è la prima, il primo vuoto che state sicuri che non è casuale. Basta fare l'esempio del velocista americano Coleman. In un primo tempo sembrava che dovesse essere squalificato perché aveva fatto tre rifiuti, si è scoperto che uno dei rifiuti era, non era 365 giorni dall'anno ma 366. Quindi capite bene che chi ha fatto il controllo ha fatto i suoi calcoli, altrimenti saremmo di fronte a dei superficiali. La seconda via di fuga è la finestra oraria, cioè gli atleti, anche per rispetto della loro privacy, hanno diritto ad essere controllati soltanto un'ora al giorno. E quindi significa che a quel punto tu puoi, passata quell'ora, prendere una microdose che tu sei sicuro che si smaltisce da oggi a domani, dopo 24 ore. Quindi le vie di fuga ci sono tanti farmaci che non si trovano nei controlli antidoping, e anche lì il sistema non è chiaro, non lo dice in maniera aperta, ma è chiaro che gli atleti esperti o medici dopatori esperti lo sanno. A me è capitato tante volte di trovarmi di fronte a dei direttori di laboratorio antidoping che magari perdevano il posto, e a quel punto dicevano: ah, io arrabbiati, io passo dall'altra parte, voglio vedere chi scopre gli atleti se li dopo. Questa purtroppo è la realtà. E gli atleti lì compilano quello che è whereabout, no? Tutti i giorni devono dichiarare, o comunque devono dichiarare dove sono e dove possono, insomma, essere rintracciati per il controllo. Sì, certamente, anche lì diciamo che gli atleti malintenzionati possono essere molto abili, per esempio allo scadere delle 24 ore, quando sanno che gli uffici di tutte le istituzioni sportive sono chiusi, mandano la modifica al loro whereabouts. E quindi può significare che se il giorno dopo li vanno a cercare in un determinato posto, loro sono già spostati, sono in regola perché lo hanno spostato. E adesso diciamo che si sono fatte un po' più furbe le istituzioni sportive, però le vie di fuga sono veramente tante. Invece per gli atleti, no, amatoriali, cioè che fanno uso di queste sostanze e non vengono ovviamente scoperti, che rischio hanno soprattutto a lunga distanza? Immagino che non venga fuori subito, ha già accennato qualcosa, però diciamolo proprio apertamente che è veramente rischioso questa cosa, utilizzare queste sostanze. Ma a me è rimasto impresso un caso di due fratelli che praticavano il ciclismo amatoriale. Uno dei due è stato ricoverato in ospedale per una epatite fulminante ed è morto nel giro di poche ore in ospedale. Mamma mia. E il fratello, il tempo di fare i funerali, il fratello a sua volta è stato ricoverato dopo pochi giorni con la stessa sintomatologia, è stato salvato con un trapianto di fegato. È emerso che avevano comprato dell'ormone della crescita, appunto, come dicevo prima, via internet. Era arrivato roba inquinata, perché poi anche questo è il problema, che spesse volte si va fuori dal circuito farmaceutico ufficiale e quindi lì si entra nel campo della mistificazione, della contaminazione. Quindi oltre ai danni del farmaco in sé, i farmaci ormonali sono pesanti ed è bene starne lontani, salvo che il medico non prescriva diversamente, ma per ragioni terapeutiche, non per lo sport. C'è anche questo rischio dell'inquinamento. Noi siamo in ambiti un po' diversi, perché a qualche mese scorso abbiamo ospitato qui in trasmissione la paralimpica Martina Caironi e la maratoneta Sara Giomi, che entrambe sono state bloccate poi con modalità diverse per doping, sembra incidentalmente, cioè hanno utilizzato dei farmaci vietati per curare due diversi problemi fisici, inciampando nell'erronea comunicazione della terapia tra medico, atleta e NADO che si occupa di antidoping in Italia. C'è bisogno di continua informazione anche per gli atleti di alto livello? Ma direi che negli ultimi tempi l'informazione c'è stata. Ho invece paura che in alcuni casi il sistema antidoping, che non prende il doping pesante, si sia specializzato a prendere lo pseudodoping o gli errori casuali. Mi ha colpito molto la dichiarazione dell'ex direttore generale dell'Agenzia Mondiale Antidoping, David Oman, che ha detto che risultano positivi al doping o quelli che commettono un errore oppure i fessi. Quindi non mi piace queste percentuali, che sono peraltro molto basse, di soggetti trovati positivi, e in mezzo ci sono casi che mi fanno pensare. Ecco, una volta che un direttore di laboratorio mi disse che una sostanza Clostebol è sufficiente che, facciamo conto, la mamma la spalmi sul figlio su una ferita, e addirittura la persona che dà la mano alla mamma può risultare positivo. Questa è la sostanza che utilizzò Martina Cairoma. Allora questo tipo di antidoping non mi piace. Questo tipo di antidoping su dei dosaggi bassissimi, sui quali ci si arrampica sugli specchi per dimostrare che è doping, mi pare che sia rifugiarsi sui poveracci, non riuscendo a trovare positivi quelli seri. Quelli che si impegnano dopo. Sì. Ma dopo tutti questi anni riesci ancora comunque a guardare lo sport con entusiasmo, sì? La domanda così generalizzata. direi qualche gara, qualche specialità sportiva, altre non le guardo proprio mai. Cos'è che non guardi mai? Sono curiosa, scusa. Ma non guardo mai le specialità di forza e le specialità spinte di resistenza, non le guardo. Guardo soprattutto gli sport dove c'è molta componente di coordinazione, di destrezza, perché so che il doping su quel tipo di caratteristiche coordinative non influisce. Quindi il dubbio ce l'hai sempre, insomma. Quindi se guardi una maratona, ma sai, uno che è stato dentro al sistema, uno al quale il sistema stesso ha proposto di allenare, di dopare i propri atleti, cioè della nazionale, e quindi io l'ho conosciuto dall'interno il doping, quindi io conosco la doppia faccia, quindi è chiaro che prendo le mie precauzioni per quello che possono servire, perché non conto niente. Sandro, in chiusura, a che punto è il caso Schwarzer? Il caso Schwarzer è nelle mani della magistratura e sta uscendo fuori roba che non minimamente si immaginava nel procedimento sportivo. Quindi devo notare questi processi, questi procedimenti sportivi sommari che si realizzano nel giro di poche ore da parte di organismi autoreferenziali. E nel momento in cui si va davanti al magistrato si scopre che questa gente intanto non si sa misurare davanti al magistrato, perché si presenta in maniera arrogante con pseudoprove, producendo bugie, e quindi finora già il giudice ne ha enumerate di gravi e il procedimento prosegue, quindi io spero che si arrivi alla verità davanti alla magistratura, dopodiché il sistema sportivo dimostrerà se è, diciamo, se rispetta la legge o se si ritiene al di sopra della legge, come la mia impressione. Sì. Sono due binari diversi, diciamo. Io credo che tutti noi, a seconda del paese, dobbiamo rispettare le regole. E Alex si sta ancora allenando? Alex con grande coraggio ha pensato: se si risolve a livello giudiziario io non mi posso far trovare impreparato. E Alex sa qual è il suo talento e lo so anche io. Fra poco inviteremo le università, gli istituti di ricerca, quando vogliono ce lo chiedono e basta, e Schwarzer è disponibile per qualsiasi tipo di osservazione. Schwarzer deve diventare la contraddizione vivente dell'infamia che è stata perpetrata nei suoi confronti. Sei fiducioso? So quanto è duro. Sono fiducioso nella magistratura. Per essere fiduciosi nella giustizia sportiva è dura, perché ad esempio nessuno mi ha chiesto di esporre tutto quello che io so e tutto quello che io ho capito. È come se non si voglia sapere. E anche di fronte al magistrato non accade altro che questo, cortine fumogene a non finire. Quindi da una parte c'è il potere, e io temo che molti media siano i custodi o in qualche maniera complici, non so per quali ragioni, forse anche perché pensano che sia destabilizzante. È destabilizzante, perché ad esempio il fatto Schwarzer insegna che l'atleta non può rimanere dopo il controllo antidoping senza niente in mano. Le due provette vengono raccolte da coloro che hanno svolto l'esame, e che tipo di garanzia rimane nell'atleta contro eventuali mistificazioni? E quindi io ho proposto, proporrò, capiranno tutti quanti, una terza provettina, piccola, che viene messa in un laboratorio accreditato e autorizzato, e a quel punto possono fare quello che vogliono delle due provette. Almeno l'atleta la garanzia, insomma, di avere la sua. Sì, insomma, è evidente anche da questo punto di vista, siamo di fronte a un sistema medievale che riteneva di essere infallibile Dio per definizione. Non è così, insomma, no? Sappiamo benissimo che ci possono essere interessi commerciali, vendette, tanti motivi, al di là della onestà di quelli che effettuano il controllo. E quindi è giusto che l'atleta sia garantito. È giusto che il caso Schwarzer insegni. Voglio ricordare che io fui vittima di un caso simile nel 1998, e lì si la di Terlizzi, quindi il sistema, questo vizietto ce l'ha già da tempo, e guarda caso nei miei confronti, e guarda caso dopo che avevo fatto delle denunce importanti, ecco, e questo è il punto, e quello è, fu una vendetta, e credo che anche questa sia tale. Abbiamo già una data di quando si saprà qualcosa? Beh, adesso sono stati depositati atti dalle parti, è probabile che entro un mese e mezzo il giudice emetta una nuova ordinanza. Nel frattempo ci sono delle rogatorie internazionali che sono partite per la Germania, e quindi dove si ipotizza che siano avvenuti i misfatti, e quindi aspettiamo. Grazie mille a Sandro Donati, a presto. Grazie a tutti. E grazie Alessandro Chiappini in regia. Noi per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 6.30, alle 16.15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.